se voli e non vuoi lasciarmi volare, che angelo sei se canti e non vuoi lasciarmi cantare, che senso ha un sorriso che sa di paradiso, se paradiso poi non è. Che angelo sei se non riconosci un amore che vale, ma angelo no, in fondo lo so, è un amore speciale, come due gocce d'acqua che giocano su un vetro. Ci ritroviamo io e te, amore mio, ci sono io vicino a te, felici o no, complici sì, amanti un po', sei come sei, non cambi mai, sei imprevedibile, tra noi non c'è. Sono io vicino a te, felice o no, complici sì, sempre di più. Che angelo sei, eppure non vuoi lasciarlo capire. Che angelo sei, fai duro ma poi mi parli d'amore. Inverno e primavera, il giorno e poi la sera, in questa vita mia con te. Amore mio, ci sono io vicino a te, felici o no, complici sì, amanti un po', sei come sei. C'è il tempo per